mercoledì ci sarà il tutto esaurito al forum, non avevo dubbi in proposito. Avete dovuto vincere una Coppa dei Campioni storica a Losanna, la prima a Losanna, che tornava a Milano 21 anni dopo per finire lì sulla prima pagina della Gazzetta e rimanerci per alcuni giorni, come ha fatto il coach in questi giorni. Modestamente correggo l'ultima prima pagina era Gand, cioè quando l'ho vinta, quando ero allenatore. Giustamente. Ci fermiamo un attimo per il traffico, 800 24 00 24, per parlare con noi, con me soprattutto, con Franco Casalini, l'altra metà di quella del cielo, l'altra metà di quella mela vincente. Ci fermiamo un attimo. Ecco che torniamo, sempre con me Franco Casalini, dopo aver chiacchierato un po' con coach Dan Peterson, il grande personaggio di questo spicchio di stagione, forse di tutta la stagione. Ma poi se vince lo scudetto, immaginati, no? Prodi vuole lo scudetto, l'ha detto. Ma quella è una questione nella quale permettimi di non entrare, perché come dico, comunque devo essere e sono equidistante, a parte l'affetto personale per lui. Però a parte il fatto che sarà difficilissimo, perché mi sembra che Siena, e devo dire anche Roma, sta tornando su, la Virtus prima o poi riprenderà il cammino, ci sono squadre che senza dimenticare la meravigliosa Cantù, che probabilmente adesso come adesso è la miglior squadra a parte Siena, a parte la sconfitta di ieri sera, ma quella è una questione che, fra l'altro, come tu ben sai, non è come in altri sport, diciamo così, più antiquati, che non hanno i playoff. E quindi quando si finisce la stagione regolare si azzera quasi tutto, e allora può succedere di tutto. Posso fare i complimenti a Livio Prodi, perché ha fatto una grandissima mossa. Ma questo resta... Mi dispiace per Bucchi, insomma, ha fatto questo il suo onesto lavoro a Milano. È chiaro che qualcosa si era strappato ed è chiaro che si era un po' spento tutto, no? Ma guarda, io ti dico, se non fosse stato per questa cosa, che comunque resta negli annali, perché riportare Peterson in panchina e far riparlare di basket tutti i media più accreditati, più seguiti d'Italia, è già un merito a prescindere da quello che potrà succedere. Se non fosse stato appunto perché ha fatto venire Peterson, non avrei tanto condiviso una scelta di cambiare un allenatore che ha fatto il massimo possibile negli ultimi due anni e che, bene o male, a parte due partite quest'anno, cioè Siena e Atene, teneva la squadra in linea, sì, anche in casa con Valencia, diciamo, però la squadra era assolutamente in linea di galleggiamento secondo quello che si presupponeva all'inizio della stagione. E quindi è sempre difficile e quasi impossibile giudicare dal di fuori. Magari la squadra non seguiva più, magari lui stesso non aveva più la stessa energia dei primi tempi, non lo so. Però mandarvi un allenatore per uno che è stato allenatore come me è sempre una notizia brutta. Certo. Ma se non fosse per questo, quindi avrei qualche critica. Ma avendo preso Peterson, Prodi, non c'è dubbio che entra già nella storia della squadra, dell'Olimpia, e forse del basket italiano, perché ha riportato in panchina uno dei personaggi numero uno della storia. Insomma. Non c'è dubbio, sono d'accordissimo con te, Franco. Adesso però preparati, che arriva una domanda difficile, che è questa. Si diceva che in quella Milano tu facessi il lavoro da allenatore sul campo e il coach creasse in panchina e in partita. Non voglio chiederti se è vero o no. Oppure ti chiedo anche quale sarà il ruolo di Valli attualmente, di Fioretti, i suoi vice in questa avventura. Beh, per quello che attiene all'oggi non lo so, perché indubbiamente non sono lì, e quindi oltretutto non lo sanno forse neanche loro, perché deve ancora cominciare, diciamo così, il lavoro. Resta il fatto che sia Valli che Fioretti sono due esimi allenatori, eccellenti allenatori. Uno addirittura ha fatto grosse stagioni, l'ultima delle quali a Ferrara, come capo allenatore. Fioretti invece mi dicono essere uno che in confronto staccano, ovvero uno sfaticato dal punto di vista della preparazione meticolosa, dei filmati, delle sintetizzazioni, delle ricerche, eccetera. Quindi non entro nel merito. Ai tempi nostri era molto diverso, perché gli ultimi anni soprattutto la squadra aveva bisogno, da una parte, di quello che ci metteva la faccia e che rischiava, perché dopo il meno 31 a Salonicco, se non avessimo passato il turno non saltava nessun altro se non Peterson, uh-huh. E quindi era lui che rischiava il tutto. Poi di dietro si lavorava tutti insieme, ognuno per la, come ha detto appena tre minuti fa lo stesso Dan, ognuno deve stare nel proprio ufficio, ognuno stava nel proprio ufficio, faceva il lavoro che si doveva fare e lui traeva le conclusioni, dava l'ultima parola, dava spessissimo i meriti a chi li meritava anche in pubblico e quindi era una macchina che funzionava a prescindere. Primo ascoltatore di oggi, 800240024, numero verde, Roberto Dalissone. Buongiorno. Buongiorno, mi permesso che ero al forum ed è stata una grande emozione rivedere Coach Dan Peterson. Ovviamente una domanda su Coach Dan Lei Peterson. Quanti anni ha? Io ne ho 40. Quindi è stato... Ero davanti a Rai 3 quando c'erano le finali di Losanna e di Gande di cui parlavo. Quindi era un nottambulo. Era in diretta, dai, non esagerare. In diretta, ricordo quando... Beh, la finale era in diretta, ma tutte le altre erano a luna passata. Tutte le altre, sì. Io invece c'ero. A Losanna a vedere quella e a Gande a vedere Franco Casarini che alzava quella dopo. Bellissimi ricordi. Ah, una domanda un po' così, tra virgolette, provocatoria, ovviamente su Coach Dan Peterson, una delle poche forse non ho sentito fargli. La nazionale quest'estate affronta uno dei suoi momenti più importanti anche per tutto il movimento. Se vedevate Coach Dan Peterson insieme a Simone Pianigiani a guidare la nazionale quest'estate nei campionati europei, un po' sulla scorta di Zorzi con Boniciolli o Arrigoni con Trinchieri, con fatte le debite proporzioni, ovviamente. Non lo so. Devo rispondere io? Sì. Ma magari anche con... Dica. C'è qualcos'altro? No, ho finito, grazie. Ne risponde subito Franco Casalini. Beh, rispondo per quello che posso, perché non conto e non so niente, visto che è una parrocchia assolutamente estranea a me. Però credo che Primo Pianigiani sia uno dei migliori allenatori europei. E quindi se Simone Pianigiani vorrà questo supporto, io sono sicuro che Dan glielo darà. Credo che comunque la triade alla guida della nazionale adesso insieme a Dalmonte Capobianco sia andata bene, a prescindere a parte il risultato, che però evidentemente non dipende solo da quello, però sì, potrebbe essere senz'altro un'idea, e chi lo sa che non succeda. Credo che Dan abbia il suo bel da fare, sarà in settembre, quindi dovrà anche fare, se sarà ancora lì, chi lo sa, e sono tutte ipotesi molto lontane nel tempo e ancora tutte da verificare. Quindi può essere pure che abbia da fare con l'Armani Jeans o quello che sarà, però è un'idea affascinante, non c'è dubbio. Senti Franco, un'altra domanda sulle segrete stanze di quella Milano, che trasportiamo alla Milano attuale, sul modo di allenare di Dan Peterson. Si è detto spariranno i video, spariranno le riunioni prepartita, spariranno le lavagnette, sarà qualcosa di profondamente diverso da quello che è il modo di allenare oggi, no? Ma guarda, io non credo che sia 100-0. Ovvero sia, non credo che spariranno, saranno certamente meno, forse, non lo so, anche perché poi non è che quello che è stato fatto adesso era tutto sbagliato, quello che può essere fatto da adesso in poi è tutto giusto. Certo è che la filosofia sua e di riflesso anche un po' mia, perché siamo figli di quella cultura lì, è diversa da quella di adesso. Allora non eravamo, faccio per dire, quando siamo partiti per la finale della Coppa dei Campioni proprio di Losanna, dovevamo giocare col Maccabi, e c'eravamo fatti arrivare la videocassetta, una delle prime, di Real Madrid Maccabi. Ora ci mettiamo in pullman per vederla, accendiamo il televisore e cominciamo a vedere. Peccato che era Real Madrid Maccabi di calcio. Però l'abbiamo vinta lo stesso la Coppa dei Campioni. quindi faccio per dire, allora non c'era tutta questa, tutta questa preparazione. Ma quello che è certo è una cosa, che il lavoro di Dan è sulla testa del singolo, ovvero sia, prima chiedevo degli scivolamenti, perché era un famoso esercizio di Peterson che faceva da 2 oggi a fino a 20 minuti di scivolamenti, con lui che dice avanti, indietro, destra, sinistra, diagonale qui, diagonale là, e i giocatori che fanno questo. E questa non è una particolare organizzazione con le rotazioni e quelle robe lì che adesso sono quelle che invece servono. Però lì, dopo che uno ha fatto 20 minuti di scivolamento, prima di farsi battere da uno, ci pensa 2 volte e quindi serviranno meno rotazioni, perché saranno meno battuti i giocatori, perché è la testa sulla quale incide, cerca di incidere Peterson, e credo che sarà quella la filosofia di tutta la squadra. È trasportabile nel basket di adesso? Lo vedremo, io mi auguro di sì, non per l'Armani Jeans, ripeto, perché tengo a sottolineare che in quanto Armani Jeans per me resta una delle 16 squadre, sì. Ma in quanto assertore di quella filosofia come allenatore, mi auguro di sì, perché vorrebbe dire che quello che penso è ancora attuale, ancora vincente. Che poi questo si converta subito in risultati sul campo è assolutamente tutto un altro paio di maniche, perché poi, come ho già detto, la palla nel buco la deve mettere Hawkins o Jabber o chi per lui, non Peterson. Uh-huh. Però se la mettono con una certa spirito, con una certa filosofia, allora lì sì che c'è Peterson. Altro ascoltatore, Nunzio, provincia di Venezia, buongiorno. Io intanto voglio fare i complimenti a Dan Peterson, perché è veramente una persona eccezionale, e da oggi ho una nuova squadra per cui ti fare, perché oltre che ti metto la Real Venezia, adesso ti farò anche l'Olimpia o l'Armani Jeans Milano, perché veramente mi sono un piacere immenso che sia tornato. Niente, volevo solo fare una domanda anche a Franco Casalini, che lo stimo molto, lo seguo sempre su Sky, che mi desse una sua opinione sulla Reyer Venezia, visto che è prima è l'Umana Venezia, perché per me resta sempre la Reyer, però adesso si chiama Umana Venezia. Volevo sapere cosa ne pensava lui, se poteva farcela quest'anno per andare in A1, perché non si traga lui di otto, secondo me merita di andare in A1. Vi saluto e grazie. La salutiamo anche noi. Reyer Venezia in A1 sarebbe un gran bel ritorno, no? L'anno scorso è tornata a Brindisi, se ne torna un pezzo per volta torna adesso, sì, la Serie A di Dan Peter, la vostra, no? Sì, è vero, sono i corsi e i ricorsi. Guarda, io ho dei ricordi meravigliosi dell'Arsenale, adesso so che non giocano più lì, però la trasferta a Venezia era una delle più attese dell'anno, quindi figuratevi se non avrei una gioia immensa a rivedere Venezia in Serie A, e devo dire, perché no, la squadra è buona, e adesso forse ha perso il consulente principe, diciamo, però Mazzon mi pare che sia uno degli allenatori più preparati di tutta la Lega 2, come ce ne sono tanti altri, per carità. Il campionato è difficilissimo, poi fra l'altro non dimentichiamoci che quest'anno virtualmente c'è una sola promozione, perché come è noto la penultima di Serie A può pagare la famosa, chiamiamola, penale di 500.000 euro, cosa che hanno già sottoscritto in 7-8 squadre, quindi certamente c'è una sola promozione, questo complica non di poco le cose, ovvero sia in pratica è la regular season che conta a questo punto, certo. E allora è difficile, però Venezia ha tutte le possibilità di farlo. Beh, intanto è prima e sta facendo una stagione straordinaria, poi vediamo. Ci fermiamo per la borsa, 800 24 00 24, numero verde. Franco, senti questa, effetto Peterson. Ho 38 anni e ieri ho palleggiato con il mio vecchio pallone da basket dopo 20 anni. Mica male. Li riporta anche al basket praticato, incredibile. A dopo. Ecco che torniamo, sempre vicino a me, Franco Casalini oggi. 800 24 00 24 è il numero verde. I vostri messaggi 349-238-6666, come questo. Un ascoltatore di Bologna, si chiama Gianni, tifoso della Virtus Bologna, ma che scrive: sono veramente contento del ritorno del mitico Dan, è un grande, noi di Bologna lo ricordiamo bene e ci mancherebbe altro. Senti, ma adesso però, se non ha nemici, come la mettiamo? Gli vogliono bene tutti e tutti che tifano per lui. È vero. Questo è un problema. Adesso quando cominceranno a giocare fischi, le rivali. Quando li prendi i fischi? Li prenderà, perché comunque è capo di una fazione, quindi le fazioni che vogliono quello stesso risultato prima o poi, anche se è vero, in questo concordo e non so se è un bene o un male, lascio agli ascoltatori decidere, è vero che non c'è il clima che c'era una volta, perché in tanti campi era davvero difficile anche entrare con la squadra ospite, adesso invece c'è molta più cultura, forse molta più sportività, magari c'è un pochino meno calore, diciamo. Senti, tra un po' ti faccio giocare uno contro uno con me, ti faccio giocare uno contro uno con me, con la sigla e tutto, alcune domande cui mi dovrai rispondere. Però prima di questo darei un'occhiata anche alla giornata di ieri di campionato. Io ho visto Siena-Avellino su Sky, naturalmente, ieri sera. Bel finale di partita con Siena che ha rischiato qualcosa e che ha vinto, come facevate spesso voi, appunto in quella Milano, cioè con il leader, sì. Per Siena Storrock, per voi D'Antoni, che mette, fa l'unica cosa giusta della partita, sì. Qualche volta capita, canestro da tre punti e vincono così. Mi ricordo una volta D'Antoni a Livorno che fece un tipo 0 su 10 e segnò l'ultimo. Sì, per non parlare di Losanna quando fece l'ultima tripla. Per non parlare di Losanna. Siena ha vinto così ieri. Sì, ma la Siena è molto simile a quella Milano là, perché... magari la Siena dell'anno scorso che era già un gruppo consolidato, questo lo sta rifacendo, ma il manico è sempre quello, cioè Pianigiani, e devo dire che hanno ancora una volta dimostrato non solo la bravura ma soprattutto il fiuto, che è una cosa che non si insegna se non ce l'hai dalla nascita, nel prendere certi giocatori. E voglio ancora una volta citare Maccale Bieri, che è stato l'iniziatore di quell'azione lì con la penetrazione, che poi per cultura della squadra è arrivata l'uomo più libero, che era Stonrook, il quale naturalmente, non essendo un giocatore qualunque, magari sbaglia 100 tiri quando contano meno, ma quando non contano la butta dentro, e ha fatto il più 5, cioè praticamente la vittoria più o meno sancita, anche se ieri anche Siena però credo che abbia avuto una lezione, perché se non stai attento quest'anno soprattutto, anche una squadra come Avellino, anche con tutto il rispetto, però non è fra le prime, diciamo così, se non giochi al massimo in un solo periodo ti può rimontare quasi 20 punti, quindi anche per Siena è una dimostrazione in più di quanto quest'anno, grazie al cielo, il campionato sia, diciamo, più equilibrato, anche se resta sempre Siena quella da battere. Sicuro, sicuro. C'è chi, come Max da Pesaro, chiede un giudizio sulla Scavolini, che ieri ha battuto Cantù. Una piccola, grande impresa. Grande impresa, grande impresa. Io ho fatto Scavolini Montegranaro a Natale, quando Montegranaro fece una grande partita, ma l'avevo vista anche in precedenza la Scavolini. A me convince molto quest'anno, una squadra molto più solida, molto più granitica, mi dà l'idea che ci sia molta più compartecipazione nel gioco, nei risultati, e che Dal Monte al suo secondo anno abbia saldamente preso in mano la situazione. Ieri è una vittoria di quelle che fanno la differenza, forse la differenza per il momento per le Final Eight di Torino, che è già un grosso risultato, ma certo la strada è ancora molto lunga, però mi pare che domenica prossima la Scavolini debba giocare in casa contro Avellino, una partita non facile ma certamente abbordabile, questo le darebbe probabilmente la certezza matematica delle Final Eight, quindi mi sembra che sia un risultato meritatissimo, è tutto sempre meritato nel basket, non si ruba niente, perché se anche vinci di un punto è perché hai fatto qualcosa in più dall'avversario, e a maggior ragione se sei terzo in classifica, quarto in classifica, è perché stai facendo mesi di buon basket. Sì, una grande stagione. E quindi per il momento ben venga, perché poi Pesaro sappiamo quanto sia, parlavamo prima di piazze storiche, non parliamo di Pesaro. Roberto Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Roberto, ho 68 anni, sì. E vivo un po' di ricordi, per cui volevo ricordare qualche aneddoto su Dan Petersen, sì. Ricordando anche a voi che Dan Petersen è in Italia per l'intuizione di quel Porelli, grande uomo di basket che è stato Porelli, quindi sarebbe importante ricordare una cosa del genere. E, mi ricordo di Dan quando arrivò in Italia, che aveva allora indossava pantaloni rosa e non vestiva da Armani ancora. E una cosa che mi lasciò stupito fu questo: io allora ero un giovane allenatore di una squadra di periferia e Dan arrivò con la Virtus per allenarsi, no? Non aveva il palazzo era chiuso, venne a allenarsi da noi. E entrò in palestra, mi chiamò da parte e mi chiese dei pareri sulla Virtus, e io non ero nessuno, su cose assolutamente, cioè, per dire la grandezza di questo allenatore, tutto qua, di questo uomo più che allenatore, di questo direi. Uomo, di questo uomo era formidabile. Io ricordo anche che avevo avuto la fortuna facendo l'aiuto allenatore poi più avanti, di fischiare durante gli allenamenti quando la Virtus giocava con sparring partner, no? Ed era un fenomeno. Basta, tutto qui, perché è anche commovente ricordare queste cose. Grazie Roberto. grazie Roberto. Quando grazie, parla... come non concordare. Lo vide scendere dall'aereo e disse: ma questo Omarino è il nostro... Sì, con i capelli lunghi, basettoni. Sì, sì, sì. È vero, bisogna dare tutti i meriti ulteriori, a parte gli altri milioni di meriti che ha Gigi Porelli nel basket italiano, ma forse soprattutto quello di aver portato fra di noi quest'uomo. C'è anche chi scrive, ed è un argomento interessante, 349-238-6666, credo che tutta questa nostalgia sia il segno del fallimento del basket. Bella domanda, bella considerazione più che domanda. Però forse esula dalla, cioè è lui, è perché è Peterson, non è perché non è niente quello che c'era allora prima. Te la giro, è segno che nel basket di oggi i personaggi mancano proprio. Beh, un po' sì, un po' ce n'è meno, non c'è dubbio. Diciamo che gli ultimi due personaggi a livello extracestistico sono stati e sono, anche se hanno smesso, Pozzecco e Myers. Adesso li stiamo cercando altri, ne verranno altri, però non lo so, io non vorrei fare il vittimismo, ma è tale il fagocitamento di altre discipline che magari è anche più difficile adesso. Senti Frank, divertiamoci un po', giochiamo uno contro uno, io e te. 3-4 domandine strane, sei pronto? Speriamo. Dai. Allora, Franco Casalini, al nano ghiacciato non si è alzata la pressione dopo la chiamata di Prodi. Tu tutto a posto? No, per il momento sì. 75 anni, Dan Peterson, quasi, perché li compie domenica. Tonino Zorzi, che è ancora in panchina. Sì. Ursula Andres, Carla Fracci, classe di ferro. 36. Classe di ferro, sì. Però adesso giustamente parliamo del 36 perché è Peterson la notizia, ma credo che ogni anno abbia i suoi alfieri di altissimo livello. Per esempio la mia classe c'ha Marzorati. Sì. Senti, tu hai smesso di allenare nel 2000, sì, in Svizzera, sì, a Vacallo, sì. Quindi torni nel 2023, avrai solo 71 anni. Giusto, se sarò in forma come Dan lo farò, se me lo chiederanno. Se te lo chiedessero adesso torneresti su una panchina? Boh, dipende, è un bel impegno, se è un progetto che vale senza ombra di dubbio, uno che ha fatto del basket la propria vita non può rinunciare, quindi... farei forza su me stesso e sulle notti di sonno di cui parlava Dan Peterson, ma credo di sì. Qual è la più grande difficoltà che immagini troveresti? Beh, rapportarsi a una mentalità nuova dei giocatori, nuova, diversa, perché credo che i ragazzi sono sempre uguali, sono sempre meravigliosi da allenare e da starci insieme, però hanno delle diverse connotazioni, non ultima delle quali ai miei tempi milanesi e poi romani non c'erano i procuratori, che sono una parte essenziale adesso, quindi i giocatori stessi devono rispondere e comunque sono consigliati da altre, sentono altre voci oltre a quella della società e della famiglia o di se stessi. Senti, hai sentito in questi giorni una sottile paura, e se Dan Peterson fallisse? Ma sai, fa parte del gioco, lui per primo lo sa, quando uno fa sport è dietro l'angolo il fallimento, è successo a lui mai, che io ricordi, anzi senz'altro no, perché ha avuto grandi squadre, grandi società, perché è bravissimo lui, però il fallimento, che poi bisogna vedere e intendersi sulla parola fallimento, cos'è fallimento? Non vincere lo scudetto, non arrivare in finale, essere eliminati subito in Coppa Italia, magari invece anche così facendo non è un fallimento, perché comunque quello che ha sommosso in questi giorni e che sommuoverà nelle prossime settimane, già quello è un successo. A Bucchi hanno preso Van der Spiegel quando aveva bisogno di un lungo, peraltro mezzo rotto, e contratto risolto con Van der Spiegel, notizia che trovate sui giornali di oggi. Il coach Peterson potrebbe ritrovarsi invece, si dice, benjaminese, così non vale però. Beh, intanto sai, il mercato durante la stagione, che pure è una novità per Peterson, lo diceva prima noi, allora non c'era, ai suoi tempi non c'era il mercato aperto tutto l'anno, ma il mercato in corso stagione è casuale, diciamo, perché nel momento in cui c'era ancora Piero Buchi, che io saluto con molto affetto e con molta stima, lo voglio sempre ricordare, però c'era in corso l'Eurolega, adesso il Kim che è fuori dall'Eurolega gli è rimasto il campionato russo, che ha ben altra importanza, e quindi Eze, che gioca nel Kim, che è appunto squadra russa, si può rendere disponibile, cosa che allora non era. Allora, ripeto, è una questione di tempi e di modi. Adesso se ne magari si rendono disponibili anche altri giocatori di altissimo livello. Quello fa parte del gioco. Grazie Franco, stai qui. Traffico. Mi stavo divertendo anche a leggere un po' di messaggi, sms. Visto l'interesse che sta tornando sul basket dopo il ritorno di Peterson, a quando Bianchini a Roma? Ah, può essere, perché no? Valerio è come minimo dello stesso spessore, anzi no, dello stesso spessore di Peterson, quindi... Sarebbe un altro grande ritorno. Un altro grande ritorno, Franco, è stato quello di Charlie Recalcati a Varese, no? Sì. Varese, partita sparatissima, sta vivendo un periodo di flessione non da poco. Se non ho perso il conto, sono 5 le sconfitte consecutive. Eh sì, un paio, diciamo, arrivate all'ultimo secondo per sfortuna. Quella di ieri con Sassari, che non ho visto perché ero impegnato in altre cose, quindi non ho giudizi particolari da dare, però a leggere la notizia, cioè la sconfitta in casa di 7 punti mi pare, è certamente una cosa preoccupante per la squadra, per lo staff, per i tifosi eccetera. È possibile che la serie di infortuni, di tribolazioni della squadra al di là dell'impiego in campo, in partita, abbia anche condizionato gli allenamenti, e questo porta a una flessione. Però insomma Varese è ancora lì in corsa, diciamo, per le Final Eight, se vogliamo, grazie all'inizio sfolgorante che ha avuto, e quindi l'augurio è che possa riprendersi al più presto. Non una squadra profondissima, una squadra piuttosto equilibrata quella di Recalcati, ma non profondissima. No, difatti, però sai... Un po' il fashion, un po' anni 80, 8 giocatori. Ma guarda, io sono convinto che per chi non ha particolari impegni extra campionato... Si arriva migliore. Il problema è che l'intensità del basket di adesso richiede allenamenti di quell'intensità lì. E quindi se non hai il numero di giocatori che si allenano e che allenano i titolari, le difficoltà sono certamente superiori. Stefano Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io ho assistito a tutti i commenti legati al ritorno di Dan Peterson, che è una cosa che francamente mi ha fatto molto piacere. Mi sento di dover dire una cosa: da grande amante degli anni 80, nei quali giocavo, mentre invece adesso sto allenando da professionista nelle leghe minori ormai da qualche anno, sì, credo che la vera differenza sia in quella che era la capacità di comunicazione di questi allenatori degli anni 80, quindi parlando di Peterson, ma direi Bianchini, lo stesso Alberto Bucci, cioè persone che riuscivano comunque a entrare anche nell'immaginario collettivo di tutti quelli che vivevano di basket e seguivano il basket. Sì. Aprivi la Gazzetta o il Corriere, vedevi le interviste e rimanevi a bocca aperta, cioè erano persone di grandissima cultura che riuscivano a trasportarla nel basket e aumentavano anche la cultura del basket stesso. E ne abbiamo qui uno, Franco Casalini, che non a caso ha fatto della comunicazione un altro mestiere. Beh, sì. I suoi commenti su Sky sono sempre graditissimi. Grazie. Ma guarda, sono d'accordo con te, perché hai citato tre persone di elevatissima pregnanza culturale, mentale, e quindi erano senz'altro gli alfieri di una categoria molto, molto elevata. Io devo dire la verità, ho grande stima della categoria attuale degli allenatori, quindi credo che ci siano anche lì grandi personalità, a cominciare da Pianigiani e giù fino a tutti gli altri. Chi lo sa, pongo la questione, tu dicevi titoli sui giornali, forse i giornali non danno il titolo a prescindere, perché hanno altre cose a cui pensare, ci sono molte più argomenti, voglio dire, di una volta, e quindi magari è anche una questione oggettiva, una questione di impossibilità materiale, però è certo che allora c'era una dialettica e una vis polemica molto più sentita. Sì, bisogna dire che il discorso in questi giorni non vale, ne abbiamo parlato prima, no? Visti i titoli. Sì, che, sì, sì, beh, sì, che sì, ritorno, certo, del principe dei comunicatori. Certo, ha certo. Adesso portato alla pallacanestro. Certo, non c'è dubbio, È un po' un serpente l'uovo o la gallina il serpente, com'è che è? Mi fai una domanda troppo difficile. La gallina, l'uovo e il serpente. La coda, il serpente. La coda, il serpente, l'uovo e la gallina. Va bene, quella roba lì, insomma, ci siamo capiti. Ma perché adesso c'è paura di parlare? Non lo so. C'è paura di parlare? Tu, lavorando comunque in questo ambiente dall'altra parte, quindi dalla parte del microfono. Ma non mi sembra. C'è paura di dire le cose. Non mi sembra. È forse più difficile, forse, come dicevo prima, ci sono più orecchie che ascoltano, tipi di orecchie che ascoltano, e allora bisogna essere ancora più diplomatici, forse, non lo so. Io devo dire la verità, ho un eccellente rapporto con tutti gli allenatori e tutti sono ampiamente disponibili a parlare. Certo, magari il parlare off record è diverso dal parlare, diciamo così, in pubblico. Però sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista della disponibilità non mi sembra di vedere una differenza così sostanziale. Franco, torniamo alla Milano a questa Milano, quella che Peterson si è trovata in mano. È una Milano senza testa, prima parlavamo coda, uovo, gallina, senza testa e senza coda, sì, in questo momento, sì. Playmaker vero che non c'è. Finlay, abbiamo chiesto prima al coach, sarà ancora a cambio delle guardie? Io credo di sì, credo che le gerarchie, e queste Peterson credo le costruirà subito, una Milano ne ha avute poche di gerarchie. Credo che debba capire dal di dentro di cosa sta parlando, e quindi la profondità e la serietà del personaggio mi fa pensare che non possa fare interventi immediati, perché prima di avere... di essersi reso conto esattamente di quello che serve, oppure di quello che manca. Finlay e Jabber sono due giocatori che magari per uno che era abituato ad Antoni o magari a giocare contro Ossola o contro Marzorati o contro Cagliaris, o avere Cagliaris a Bologna, è una novità, ma questa è una novità che nel panorama dei playmaker odierni non è così rara, voglio dire, certo. Ci sono tanti giocatori in quel ruolo lì che non sono come quelli che pensiamo debbano essere come caratteristiche un playmaker, e quindi staremo a vedere. Devo dire, mercoledì, per quello che vale una partita, cioè un solo test, sia Jabber che Finlay, per quello che gli era stato richiesto, hanno fatto il loro dovere, quindi staremo a vedere. E Pečarov che ruolo può avere in questa Milano? Fino adesso ha avuto un ruolo, insomma, non c'è stato quasi mai, onestamente. No, questa è stata quest'anno una delle sfighe di Bucchi, e non c'è dubbio. Sì. Pečarov mi sembra però un giocatore in grado di diventare una superstar nel campionato italiano. Sì, io credo che abbia uno dei talenti massimi per quel ruolo lì, che è un ruolo che può essere sia 4 che 5. Adesso deve giocare da 5 e per i miei gusti sta troppo spesso lontano da canestro. Questo toglie un po' di profondità alla squadra. Ma io credo che se si adeguerà alle richieste di Peterson e sarà così intelligente da capire che il suo gioco deve essere la profondità, la pericolosità in area, possa essere un grosso giocatore. Io non lo conosco così tanto da poter dire già adesso sarà una stella. Ho ancora qualche perplessità sul piano della combattività, sul piano della comprensione del gioco, ma è perplessità, non è critica per il momento. Sul piano difensivo invece le perplessità si trasformano quasi in certezze. Non è un gran difensore, si vede. No, decisamente non è Mason Rocca, questo è poco ma sicuro. Però sai, non tutti nascono imparati in quello. Se non ce l'hai, non ce l'hai, però puoi essere così intelligente da fare le robe utili. Allora se sarà così intelligente da fare le robe utili, anche se non è un combattente, darà il suo contributo. Parlavo di gerarchie prima, che Peterson darà in maniera, credo sarà il suo primo intervento, credo che nel giro di pochissime partite vedremo delle gerarchie precise a Milano. Forse è stato il peccato capitale di Piero Bucchi quello di non riuscire a scriverle e a darle in maniera molto precisa. Non lo so, dare un giudizio di uno che ha fatto quello che ha fatto, cioè due finali e secondo posto eccetera, mi sembra ingeneroso e non mi permetto di darlo, anche perché bene o male c'erano delle gerarchie, anzi c'erano dei precisi ruoli con Bucchi, quindi non entriamo nel merito. Certo è che per Peterson il quintetto base, il primo cambio, il secondo cambio, l'altro giorno mi aspettavo dopo 5 minuti di vedere Bargna sulla sedia del cambio come era a suo tempo, purtroppo Bargna non c'era, ma comunque sia vedrai che succederà quello. Non poteva mancare Flavio Tranquillo a scrivere la sigla del, di Palla Spicchi. Ciao Flavio. Buongiorno. Ciao Flavio. Ciao. Una tua qualcosa di molto personale, se mi permetti. Come hai vissuto questi giorni emotivamente? Ma guarda, io faccio questo lavoro solo perché c'è stato Dan Peterson nel passato, perché altrimenti ben difficilmente un telecronista con le mie caratteristiche avrebbe avuto la possibilità di fare questo lavoro. Ho avuto la possibilità, la gioia, la fortuna di lavorare con Dan Peterson per tanto tempo, gomito a gomito, prima montando del materiale, poi avendo l'onore e il prestigio di fare delle telecronache assieme, quindi sicuramente un piacere. Poi avrei dei distinguo su alcuni commenti che sono stati fatti in questi giorni, ma le mie emozioni sicuramente ci sono e sono molto molto piacevoli. Quali sono alcuni di questi distinguo, Flavio? Guarda, il distinguo è questo, che secondo me vendere con tutto, che giustamente io sono stato il primo e tutti noi siamo stati i primi inter pares, non si può non cavalcare giornalisticamente, mediaticamente, quello che a tutti gli effetti è un evento per quelli che sono gli ordini di grandezza nel nostro villaggio poco globale. Però secondo me mancare di rispetto a Dan Peterson, a Piero Bucchi, a Franco Casalini e all'ultimo tesserato come allenatore di base, ritenere che qualsiasi persona arrivi un giorno e cambi una realtà consolidata. Questa è un'interpretazione del ruolo dell'allenatore come un mago, come un giocoliere, come un circense, come un incantatore di serpenti, che non mi trova d'accordo neppure quando va a illustrare, e secondo me non va a illustrarlo, ma secondo me invece a penalizzare uno che, oltre a cambiare le sorti dei telecronisti, ha anche cambiato le sorti di tutti gli allenatori, perché c'è chiaramente un'era ante Peterson e post Peterson nel mondo dell'allenatore italiano. Con tutto questo, ripeto, dire adesso è arrivato lui, gli ha detto prendete i rimbalzi e riprendono, correte e corrono, segnate e segnano, questo è mancare di rispetto al ruolo in generale dell'allenatore, ma è sicuramente la mia ipersensibilità a suggerirmi un commento del genere. Flavio, ci sentiamo domenica sera. Un abbraccio, non mi dici niente. Sei scioccato. Sono abbastanza scioccato, sì. sono abbastanza. Posso rifletterci un po'? Riflettici. No, ma Flavio, proprio l'effetto di vederlo lì, qual è stato da parte tua? Ma l'effetto, onestamente, non sono stupito, nel senso che. No, ma intendo proprio vedere lui lì davanti alla panchina che faceva i gesti di una volta. Naturale, perché per me è 15 anni che ha già deciso di rientrare, non c'è stata l'occasione, non si sono verificate le condizioni, nessuno gli ha dato la possibilità, lui non ha mai ritenuto probabilmente che la possibilità che gli veniva data fosse quella giusta, ma nella testa è già rientrato, sarà stato non allenatore per 2-3 anni, forse dopo il ritiro, dopodiché aveva già ricominciato a essere allenatore, quindi per me è come se non fosse passato il tempo a livello di emozione, veramente. Ma l'ho trovato del tutto naturale. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Ciao, Flavio. Intanto ci rifletto, poi ti mando un SMS. Va bene, senz'altro, abbraccio. Grazie Flavio Tranquillo e grazie naturalmente a Franco Cantanida. Grazie a voi, grazie a tutti. Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia. Torniamo con lo sport domani dalle 5 alle 6, naturalmente riprende a pieno ritmo la nostra programmazione, domenica dalle 4 e mezza alle 7 il calcio e dalle 8 e mezza alle 9 il basket, per capire cosa avrà fatto Dan Peterson e Armani a Cremona. Ci sentiamo domani.